Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Nel cuore di una storia, il nucleare che l'Italia archiviò con il referendum del 1987 sull'onda del disastro di Chernobyl, oggi unico grande paese europeo ad aver rinunciato a quel tipo di energia, e quelle centrali che incutevano terrore per due giorni sono state riempite da un pubblico voglioso di capire cosa è il nucleare, come stanno smantellando le centrali, dove finiranno i rifiuti radioattivi. Ecco qui già pronto uno dei depositi temporanei, ma quel che si attende è un deposito nazionale, dove non solo poi verranno sistemati i rifiuti nucleari. Sì, questa è una domanda che chissà perché da un po' di tempo nessuno si fa più, anche se la questione del nucleare ha molto appassionato gli italiani, ha molto appassionato i movimenti ambientalisti, ma dal referendum dell'87 se ne parla soltanto, ma vagamente, molto lateralmente, nulla a che fare comunque con le scelte politiche riguardo l'energia del nostro paese, quando non so, magari il pentito Carmine Schiavone dice che nella terra dei fuochi venivano camion e camion di fanghi radioattivi, però venivano dalla Germania, allora improvvisamente ritorna fuori il problema. In realtà in Italia dal referendum dell'87, proprio dall'uscita da ogni progetto di energia elettrica prodotta attraverso il nucleare, sono rimaste 8 centrali nucleari che forse questa mattina vogliamo capire cosa sta accadendo, perché non è che il giorno si decide di chiudere una centrale nucleare è un po' come che ne so, spegnere l'interruttore della luce in camera vostra e poi tutto è finito così, massimo si toglie la lampadina. No, è una cosa abbastanza complessa. Quindi questa mattina ho la persona che ha in mano, diciamo, tutta l'operazione che porterà in un futuro non immediatissimo alla cancellazione di ogni pericolo rispetto a quelle centrali nucleari, perché in fondo laddove c'è un processo di quel tipo comunque si produce un materiale radioattivo, si produce un materiale a tenere sotto osservazione. Fabio Chiaravalli, buongiorno. Buongiorno a lei. Fabio Chiaravalli è il direttore della divisione deposito nazionale parco tecnologico Sogin. Voi chi siete? Voi siete quelli che, a cui lo Stato ha dato l'incarico, cioè occupatevi voi di queste 8 centrali? Sì, noi siamo una struttura dello Stato alla quale è stato demandato proprio il compito di gestire gli impianti nucleari sul territorio nazionale. Dico impianti nucleari perché questi 8 impianti nucleari sono 4 centrali di produzione di energia elettrica, quindi i 4 impianti dove a suo tempo veniva prodotta l'elettricità in senso stretto, e altri 4 impianti sempre nucleari dove però non si produceva energia elettrica ma che erano a servizio delle centrali di potenza. Diciamo, allora, i centri di produzione erano 4, gli altri erano impianti, diciamo, di servizio, accessoria perché potessero funzionare. Questi 8 impianti sono tuttora presenti sul territorio nazionale. Dove stavano? Non erano dislocati? Sono tuttora dislocati. Sì. Le quattro centrali, partendo da nord, c'è la centrale di Caorso nel Piacentino, la centrale di Trino nel Vercellese, e poi c'è al centro la centrale di Latina e la centrale di Sessarunca sul Garigliano. Queste sono le 4 centrali di produzione. Poi ci sono appunto gli altri impianti, e gli altri impianti sono 2 in Piemonte, uno a Saluggia sulla Dora Baltea, è l'impianto ed è un impianto di ricerca dell'Enea, un ex impianto Enea, dove venivano fatte anche attività di riprocessamento del combustibile irraggiato. Poi c'è l'impianto in Bosco Marengo, vicino a Novi Ligure, dove veniva prodotto il combustibile nucleare che poi veniva immesso nei reattori delle centrali. E poi, in analogia, diciamo così, all'impianto di Saluggia, ce n'è un altro a Trisaia, in Basilicata, e poi il centro di Casaccia, all'interno dell'Enea, dove ci sono 2 impianti di questo tipo. Ecco, tutto l'insieme di questi impianti è da tempo in gestione di Sogin, che è appunto la struttura dello Stato alla quale è stato demandato il compito di gestire questi impianti. Ecco, io volevo sentire oggi il pubblico chiamarlo su un argomento che probabilmente non tutti hanno presente centrale nella stessa maniera, ma ci saranno persone che hanno ascoltato, ci stanno ascoltando in questa trasmissione, che abitano in zone limitrofe alle località che ho fatto elencare al dottor Fabio Chiaravalli. Ecco, qual è la percezione territoriale rispetto a questi luoghi che sono come dei luoghi che in questo momento sono in una fase di mantenimento, perché non è che è così immediato il processo di smantellamento, ma intorno a voi com'è cambiata la vita? E nella vostra idea generale, una volta passato il referendum, che prima del quale c'erano cartelli, manifestazioni, gente che si incatenava davanti alle centrali, c'era di tutto, poi improvvisamente, una volta allontanato il problema, sembra che è qualcosa che non appartiene più alla nostra sensibilità nazionale, ma secondo me invece riflettere e capire cosa si sta facendo perché questi luoghi diventino luoghi totalmente inoffensivi, secondo me è interessante. Allora vediamo di capire proprio da un punto di vista tecnico. In questo momento queste centrali sono in una fase di mantenimento, che vuol dire? Sono spente, ma bisogna stare attenti che tutto sia entro le regole. Sì, è proprio così come dice lei. Una centrale nucleare, quando viene disattivata, rimane comunque con la radioattività al suo interno. Allora, la prima operazione che occorre fare è rimuovere il combustibile nucleare, le barre di uranio per intenderci, e dove le mettete? All'interno del reattore. Cioè vengono sfilate, diciamo? Vengono sfilate. Tra l'altro, in questa, diciamo, semplificazione, lei indica davvero l'operazione, perché vengono proprio sfilate. No, ho visto tanti film di agenti segreti, c'è sempre un cattivo che infila la barra d'uranio, sì, per far scoppiare il mondo, c'è sempre così, però non è così. E quindi la sfiliamo, quindi noi sfiliamo queste barre d'uranio, e queste barre d'uranio sono state mandate all'estero, e propriamente in Inghilterra e in Francia, per essere riprocessate. Quindi vengono trasportate. Vengono trasportate, e questa è un'operazione che si fa normalmente ogni giorno in tutte le parti del mondo. Cosa c'è? Un autotreno scritto sopra materiale nucleare dentro, per capire? In particolare queste barre di combustibile sono contenute in contenitori specifici che si chiamano CASC, che sono dei contenitori ad alta integrità, che hanno subito un larghissimo numero di approfonditi test di sicurezza, e quindi si chiamano appunto ad alta integrità, che sono proprio licenziati per il trasporto del combustibile nucleare. Lei guarda Simpson? Io guardo Simpson. Ecco, Homer Simpson nella sigla c'ha sempre un pezzetto di uranio che rimane infilato nella camicia, lo butta per terra. Sì. Forse il pezzettino di Homer Simpson è proprio plutonio. Ah, è plutonio, un pezzetto di plutonio. Forse, ma è vero, sì, fosforescente così? Sì, abbastanza. Ha proprio quel colore, però ha fenomeni di questo tipo. Sì, è chiaro che Homer Simpson, tra l'altro, che io trovo decisamente... Che ha un compito delicatissimo nella centrale, sì, lui. Quello dovrebbe controllare tu. Infatti ogni tanto esplodono le pezze. Sì. Ma infatti quel cartone animato io lo trovo estremamente intelligente. Beh, perché è molto lei autoironico. È quotidiana la cosa. Qualsiasi cosa, quando Mr. Barnes decide di venderlo ai tedeschi, che la fanno diventare efficiente, non era una centrale efficiente, attualmente trasudava plutonio da tutte le parti. Sì, sì, sì. Ma infatti quei cartoni animati hanno una forte dose di autoironia, sono molto intelligenti, perché rappresentano, infatti a me piace veramente tanto quel personaggio e le storie che sono incardinate attorno al personaggio. Perché è una cittadina al cui centro c'è la centrale nucleare. C'è la centrale nucleare. Perché rappresenta esattamente l'opposto, cioè questi cartoni animati sono proprio antipodici rispetto a quello che poi ogni giorno in realtà si fa per mantenere sicurezza. Servono a esorcizzare la grande paura. È proprio così. Diciamo, l'iter qual è allora? Noi abbiamo detto, in questo momento le state mantenendo sotto controllo. In sicurezza. Una volta levato il combustibile e dai reattori è stato levato tutto, le ultime barre di combustibile ancora presenti nelle centrali sono a Trino in questo momento, e sono comunque non nel reattore ma nella piscina di servizio del reattore. E le penultime sono state portate in Francia una decina di giorni fa. E quali sono le situazioni a rischio che potrebbero accadere in questa fase di mantenimento? sono delle i rischi sono intanto scusa, richiedo al pubblico 800 24 00 24, siete domande da fare sulle nostre ex centrali nucleari, questo è il momento, abbiamo probabilmente quello che è il massimo esperto in Italia, perché è il signore che ha sotto controllo tutti 8 centri in cui adibiti alla produzione di energia nucleare e sta lentamente riportandoli a dei luoghi dove possiate andare a farvi anche delle passeggiate, ma penso fra qualche anno. Sì, attorno agli attuali impianti si possono già fare delle signore passeggiate. Qual è il margine di sicurezza oggi dalle centrali? Quanto bisogna star di, quanto è recintato perché la gente non si avvicini? Ecco. Sono poche centinaia di metri, sono poche centinaia di metri, perché tutta la radioattività presente nelle centrali, ma questo succede anche nelle centrali in esercizio, è contenuta all'interno dell'impianto. Oggi all'interno dell'impianto c'è della radioattività che è dovuta proprio all'esercizio delle centrali. Quindi è questa radioattività che occorre continuare a mantenerla all'interno. Abbiamo una prima telefonata. Franco, buongiorno, ricordo il numero 800 24 00 24. Oggi tutte le domande che avete da fare, le curiosità, i timori o le certezze rispetto allo smantellamento che sta avvenendo le nostre centrali nucleari dopo il referendum che c'è stato nell'87, beh, c'è chi vi risponde. Franco, buongiorno. Buongiorno, io sono un perito in energia nucleare, mi sono diplomato nel 67 anche se non ho mai esercitato. Pessima scelta, perché dopo il referendum qual è il suo, cosa fa lei di mestiere? No, io ho fatto tutt'altro, ho lavorato alla microtecnica, al politecnico, poi in campo musicale, però non c'era proprio possibilità, uno solo della nostra classe è andato a lavorare nel nucleare. Io mi ricordo che la gita più lontana dove ci hanno portato per il diploma è stato Milano passando da Saluggia nel 67. Ecco, perciò... E quindi... Ma la mia domanda era questa, sì. È per il professore, no? Cioè, siccome mi pare che si stia creando un po' troppo allarmismo, vorrei che il professore... Ma quale allarmismo? Guardi, nessuno ne parla più, io ne parlo proprio perché... Nessuno ne parla più, mi piace capire. No, il mio era un discorso un po' più generale, cioè livelli di radiazioni, no? Sì. Cioè vorrei che il professore confermasse che un viaggio aereo e soprattutto le lastre, soprattutto le panoramiche, spesso e volentieri ci fanno assorbire delle dosi di radioattività maggiori, soltanto che di questo nessuno ne parla. Si insiste molto, giustamente. Sì, esatto. È un quesito, ecco. Quesito di tipo clinico. Allora, guardi, mentre lei ha il tempo delle informazioni del traffico, solo un istante per tranquillizzarsi su tranquillamente può farsi tutti gli esami, tutte le lastre, se è preoccupato per questo, le dirà adesso se è materia che lui tratta, però non è proprio esattamente quello che fa lui, che occupa di centrali, questo dovrebbe chiederlo a un radiologo quanto assorbe di radiazioni per ogni lastra, però poco a che fare con questo tema, però per tranquillizzarla, visto che avrà preoccupazioni prostatiche, la sentiamo tra un istante, intanto andiamo con il traffico. Melog, cronache meridiane. Oggi cioè, torniamo a parlare di nucleare. Torniamo a parlare anni dopo il referendum che ha definito che gli italiani non vogliono sapere del nucleare, perché il nucleare è una coda lunga, non è che basta dire non lo voglio più e scompare, lascia una sua traccia. Questa traccia è affidata alla Sogin, che è in studio il direttore di visione deposito nazionale parco tecnologico Fabio Chiaravalli. Un ascoltatore ci ha chiamato, un ex perito nucleare, facendoci una domanda intelligente. Per lui dice: tutte le lastre che facciamo, tutte le volte non ci esponiamo comunque radiazioni, gli ospedali sono dei grandi luoghi di produzione di materiale comunque radioattivo, dice, quanto lasciano traccia sul nostro corpo? Noi interessa anche sapere quanto lasciano traccia poi nel territorio. Ve ne occupate sempre voi? Diciamo, sì. Dei rifiuti ospedalieri. Sì, perché Sogin, oltre a occuparsi del mantenimento in sicurezza delle centrali e del loro decommissioning, necessariamente si deve occupare anche del deposito nazionale, perché tutti i rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento delle centrali e soprattutto tutti i rifiuti pregressi, cioè la roba vecchia, prima la roba vecchia, sì, proprio lei, quella che fu prodotta durante l'esercizio delle centrali, dovrà poi, come in tutto il resto d'Europa, dovrà poi andare a confluire in un deposito nazionale. Ecco, ma le cose antiche, lei ancora al tempo magari faceva al liceo, però c'erano le stesse garanzie che ci sono oggi. Lei risponde anche del materiale stoccato nell'84, nell'83. Chi lo faceva e quali protocolli seguiva? I protocolli di quei tempi erano diversi dai protocolli di oggi, ma erano già molto attenti alla sicurezza. In ogni caso, siccome questi rifiuti non sono mai usciti dalle centrali, ma sono sempre rimasti nei depositi temporanei sulle centrali, negli anni sono stati monitorati e controllati, e quindi laddove è stato necessario intervenire per aumentarne la sicurezza sono stati adeguati. Avete rimpacchettati con una confezione migliore. Laddove necessario. Ecco, la domanda del nostro ascoltatore. Ecco, allora, quanto producono le nostre cliniche, i nostri ospedali, materiale da smaltire comunque? Allora, le nostre cliniche e i nostri ospedali producono parecchie migliaia di tonnellate all'anno di rifiuti radioattivi. Non tutti questi rifiuti radioattivi dovranno venire a deposito nazionale, perché occorre considerare che molta parte dei rifiuti radioattivi prodotti dagli ospedali, quindi dalle pratiche sia diagnostiche che terapeutiche, decadono molto velocemente. Più che quelli che derivano dalle centrali, chiaramente. Esatto. E quindi diventano molto velocemente rifiuti convenzionali e vengono smaltiti come tali. Però una buona parte rimane radioattiva. Quello che è importante, e quindi il nostro ascoltatore che parlava di delle dosi, che lui parlava della radioattività che veniva presa durante le pratiche diagnostiche o terapeutiche. Ecco, lui ha tirato fuori un argomento importantissimo, perché non è tanto importante, anzi direi che non è importante la quantità di attività, di radioattività, quanto la dose, cioè quanta di questa radioattività arriva all'essere umano. E quindi il nostro ascoltatore può stare tranquillo, perché le dosi che oggettivamente l'essere umano acquisisce nel momento in cui fa una pratica terapeutica sono dosi che comunque sono assorbibili dal fisico, e qui in quella quantità, e quindi non danno. È vero, dottor Chiavalli, che basta vivere in una città come Roma, dove, fatta di San Pietrini, che sono fortemente radioattivi, vivere in una casa come qua vicino nel Viterbese, fatta di tufo, che è fortemente. Io vivo nel Viterbese, quindi mi prendo le mie dosi ogni giorno. E lì è tutto tufo, quindi è tutto materiale. Comunque, ha mai provato con un contatore Geiger a vedere quanto è radioattiva a casa sua? Le è venuta la curiosità? Ci sono delle zone anche vicino a casa mia dove ci sono delle vedute di radon, che è un gas radioattivo, che sono ai limiti delle soglie. Ma sentiamo Bruno, un attimo solo. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, domanda. Sono Bruno, chiamo da Roma, sono in macchina, adesso cerco di accostare. È molto interessante la trasmissione. Volevo mettere soltanto l'accento su un aspetto, se mi è permesso. Le centrali, come giustamente ha detto il collega della Sogin, in Italia sono 4. Ah, lei quindi è del mestiere? Sono del mestiere, ma non sono della Sogin. La concorrenza, ma avete dei concorrenti? No, non ci sono. Sono in regime di monopolio. No, ha parlato perfettamente. No, era semplicemente, volevo mettere un appunto e volevo dare uno stimolo alla trasmissione. Sì. Allora, una domanda retorica: quante centrali ci sono al momento? Quanta produzione di energia in senso lato viene prodotta col nucleare in Italia? La risposta è ovviamente zero. In realtà si sta ancora producendo energia nucleare, nel senso si sta producendo energia negativa, perché la Sogin ha un costo, o giustamente deve essere finanziata dalla finanziaria in qualche modo. Perché? Perché l'energia continua in una centrale nucleare, continua a produrre pure quando è dismessa. Lo stiamo dicendo perfettamente, però siccome la Sogin nasce da una costola dell'Ente Nazionale Energia Elettrica, la cosa che si perde a livello giornalistico è il fatto che comunque in un ipotetico confronto di costi e benefici, questi aspetti, questi costi, queste aziende vengono dismesse, ma in realtà quella centrale che oggi non produce più, che ha stimolato dei costi, dei benefici nel passato, non viene più messa nel bilancio dell'energia che invece... La domanda è troppo lunga. Vediamo se Fabio Caravalla ha capito la sua domanda. Mi sembra più un discorso interno fra addetti ai lavori, onestamente, perché io mi interesso soltanto di capire chi sta smantellando le centrali, come fa. Lei entra poi in una questione un po' più interna. Vediamo se ha capito Caravalla cosa dice questo signore. Io non molto, onestamente. questo signore che io saluto, credo di aver capito che chieda un chiarimento su un fatto che è oggettivo. Quando una centrale nucleare, come qualsiasi impianto, è in funzione, produce, quindi produce reddito. Nel momento in cui è spenta, va smantellata, costa e non produce più. Produce un costo. Sì, la palissiano. Cioè. Ma c'è un'alternativa a non far nulla? Cioè non è che si può lasciar lì, chiudere e andarsene? Anche lasciarla lì e quindi metterla in custodia protettiva passiva sarebbe comunque un costo per molti più anni. Però questi costi sono costi che sono compresi nella tariffa elettrica, è la componente A2, tra l'altro sono costi che gravano in modo molto limitrofo. Più che preoccuparmi dei costi, che pago anch'io, quindi dovrei preoccuparmi, è che è ineluttabile, non vedo alternative, perché ci fossero delle alternative. Gli italiani, quando hanno votato e non volevano il nucleare, si sono presi anche carico del fatto che poi devono di tasca loro pagare lo smantellamento del nucleare. Sta nelle cose. Non è che qualcuno dice non lo volete più, con la bacchetta magica scompare. Fabrizio. Buongiorno. Io abito nei pressi di Caorso, in provincia di Piacenza, ho 62 anni e ricordo sia le prime costruzioni della centrale quando eravamo giovani periti e poi anche il referendum con lo smantellamento. Io, il vostro ospite, ha anticipato la mia dichiarazione, volevo fare semplicemente una denuncia sul fatto che la politica, non è vero che ha spiegato agli italiani che si dovevano prendere il carico di questi costi, la politica ha detto volete accendere o spegnere le centrali, gli italiani hanno detto spegniamole, però non gli si è spiegato che una centrale spenta è pericolosa come d'accesa, anzi forse di più, perché d'accesa produce un reddito e l'azienda che la gestisce può anche spendere sulla sorveglianza. Sì, beh, capito, sì, però mi dice l'alternativa, se gli italiani non si sono informati quando hanno votato, io stesso allora mi ricordo che votai, non so cosa fare, in questo momento è ineluttabile, le centrali vanno smantellate, è un processo lungo, è un processo costoso, non le abbiamo volute e adesso dobbiamo smantellarci, mi sembra abbastanza chiaro. Alla prossima.